coerenza. Classe operaia insorge e suona la tua martinella. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh, tu camorra, fino a che ce ne sarà. Che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Allora, siamo qui, manifestazione del 22 ottobre. GKN ha chiamato tutto l'antagonismo del centro Italia, anche del nord, qui a Bologna. Anche del sud. Sei tu. Infatti, sei. No, ecco. Infatti, scusa. Io pensavo di vederti il 5 novembre, invece ti vedo qua. Bene. Abbiamo con noi De Magistris, diciamo il candidato numero uno di Unione Popolare. Sei qui, sei tra quelli che hanno aderito a questa manifestazione. Vogliamo da te un commento. Io ci sono dove ci sono sempre stato. Nelle lotte per i diritti, contro le opere pubbliche inutili, contro la devastazione ambientale, contro cricche e massomafie, ma anche per dire dei sì, che altrimenti qualcuno può pensare che noi siamo la politica del no. Noi siamo per la politica dell'alternativa dal basso, sulla giustizia sociale, ambientale, per i diritti costituzionali, per l'antifascismo, per i beni comuni, per l'acqua pubblica, come ho fatto a Napoli. Sono rimasto l'unico che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica, che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale, lo voglio dire, mentre Firenze sceglie di affidare l'acqua e tutto ai privati, quindi al profitto. Noi siamo invece per collettivizzare i beni comuni e mai come in questo momento, a cominciare dall'energia, no? Dal gas. Quindi questo è un corteo che dice un no a questo sventramento a Bologna del passante, ma che vuole costruire un'alternativa non solo nelle piazze, nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole, ma anche un'alternativa istituzionale. La domanda che ti volevo fare è chiaramente legata invece alla proposta di legge contro le delocalizzazioni. La GKN è stata la promotrice insieme a dei giuristi, perché io sono un metalmeccanico, la nostra trasmissione è la trasmissione dei metalmeccanici di Bologna, siamo molto interessati a quella, l'abbiamo sempre appoggiata. E cosa pensa di fare l'Unione Popolare per, insomma, per appoggiare questa, visto che comunque Potere al Popolo è stato tra i promotori di questa legge, proposta di legge? Fa parte non solo del nostro programma Unione Popolare, ma anche le nostre ex deputate di Manifesta l'hanno sostenuta in Parlamento prima che si sciogliesse il Parlamento. Io poi ho vissuto anche sulla pelle viva della mia città la vertenza Whirlpool, che ovviamente ogni vertenza ha delle sue peculiarità, ma molto simile ad altre aziende come GKN, come Trieste, la Varsila ed altre. Quindi credo che bisogna portare avanti questa lotta non solo nelle piazze, provare a trovare dei veicoli anche parlamentari per sostenerlo. Quello che possiamo fare come metalmeccanici, stiamo facendo il congresso della CGIL e stiamo portando avanti questa norma di legge, il documento alternativo che stiamo portando avanti, e speriamo di influenzarlo, perché c'è più bisogno dell'unione dal basso di tutti quanti. Questa dell'unione la condivido molto, dobbiamo unire sulla credibilità, la coerenza, i valori costituzionali per costruire una forza popolare di sinistra, pacifista, ambientalista, costituzionalmente orientata, soprattutto nelle lotte, e poi vedere chi ci sta in Parlamento a sostenere queste battaglie. Ah, non c'è nessuno oggi sicuramente. Se noi siamo qua evidentemente non c'è, però mai, come dire, perdere la speranza che qualcuno possa finalmente, non per ragioni strumentali o elettorali, tra virgolette, sposare un'agenda veramente sociale. Di noi si può dire di tutto, tranne che non siamo credibili e coerenti. Abbiamo anche dimostrato, quando abbiamo governato, io ci tengo a dirlo, che se no pare che uno fa solo le battaglie sui social, nelle piazze, nei cortei, dice dei no. No, datevi a studiare la lotta che abbiamo fatto a Napoli, senza soldi, contro tutto il sistema, i governi nazionali, regionali, grandi partiti, grandi giornali, la camorra, la borghesia mafiosa, abbiamo dimostrato che l'alternativa dal basso è possibile. Io ti conosco bene, io sono anche del sud e lo so benissimo questa cosa. Grazie di tutto e speriamo bene. E a proposito di sud, no all'autonomia differenziale, un altro scempio, certo, che vogliono fare. Certo. Grazie. Ciao. Siamo qua con Matteo, delegato della GKN della FIOM di Firenze. Come va? Bene, ho preso 2 voti al congresso. Bene, una bella giornata, anche se un po' nuvolosa, si sta sentendo le prime gocce d'acqua, questo non era previsto, onestamente. Però insomma siamo qua, come dire, in veste di convergenza ai compagni e le compagne di Bologna che ci hanno aiutato a riempire le strade di Firenze. Oggi sta a noi rendere il favore, siamo qua con loro appunto per rivendicare il no al passante, ma anche il no alle delocalizzazioni che appunto stanno colpendo vari lavoratori, in particolare la GKN. Rivendichiamo appunto quella legge in Parlamento, visto che oggi si è formato il nuovo governo, legge contro le delocalizzazioni, che è una lotta per noi ma per tutti. Prima ho intervistato De Magistris e gli ho spiegato che noi stiamo facendo una battaglia che continua nei luoghi di lavoro, nel congresso, in cui tutti i congressi portiamo l'idea della GKN, la legge di iniziativa popolare contro le delocalizzazioni. Lui si è impegnato come Unione Popolare a portare ancora avanti questa legge, anche se sappiamo che purtroppo il Parlamento, peggio di prima, si è messi male. Ma sì, la nostra legge, noi quando l'abbiamo preparata insieme ai giuristi e ai giuslavoristi solidali, avevamo fatto un appello a tutte le formazioni politiche perché appunto questa legge non fosse come dire vestita solamente da qualcuno, ma fosse una legge, come dire, a disposizione di tutti, una legge di giustizia per il paese. Praticamente solo Potere al Popolo e il gruppo di Manifesta e pochi altri l'hanno abbracciato questo appello, e quindi, come dire, il nostro appello è comunque aperto a tutti. Certamente questo appello dobbiamo portarlo nelle piazze come state facendo oggi, perché è importante questo. Assolutamente sì, è il nostro pezzo di convergenza. La convergenza è composta da tutte quelle lotte, da tutte quelle realtà che stanno portando avanti appunto molto spesso in solitaria delle rivendicazioni stragiuste, e quindi il processo di convergenza è quel filo rosso che tenta appunto di unire tutte le vertenze, tutte le lotte, perché bisogna, per vincere bisogna cambiare i rapporti di forza in questo paese. E dunque il 22 ottobre e il 5 novembre, non dimentichiamo, a Napoli una grande manifestazione ci sarà. Eh sì, sì, ci sarà il proseguo della convergenza, diciamo così, delle istituzioni da parte nostra. I disoccupati napoletani sono sempre stati al nostro fianco per le vie di Firenze, e quindi è giunta l'ora di scendere a Napoli in questa manifestazione che parlerà di caro vita, ma anche di pace e comunque lotta alla guerra. Guarda, ti ringrazio e ti voglio dire che anche io ho preso 2 voti al congresso. Allora, siamo qua con Snupo, il nostro cantante della sigla finale, e gli facciamo gli auguri. Grande Snupo, ti facciamo oggi il tuo compleanno. Non ti chiediamo quanti anni hai, perché tu non hai anni, sei infinito, dai. È un millennio, sei mille anni. 58, dai. Ed è bello condividerlo insieme agli amici, ai compagni, queste cose qua, perché o vivi per valori alti o non è vivere dal mio punto di vista. Però chiaramente ognuno agisce per come può, insomma. Allora, noi ti seguiamo anche su Facebook, come pagina, ti seguiamo spesso e veramente sei dappertutto. Tutte le iniziative di lotta che vengono fatte, soprattutto in Toscana, vediamo che sei sempre in prima fila. vabbè, in prima fila come mio compagno. Bravo, infatti quando vediamo te capiamo che ci sono tutti i compagni con te. Vediamo sì. Te che cerchiamo te. Vabbè, magari perché non è l'occhio per l'aspetto, però alla fine cioè tutti i ragazzi veramente si sbattono andando a tutta parte, di Emilia Romagna, siamo andati a tutte le parti in Italia. Per cui insomma, veramente. E la questione di Prato l'abbiamo seguita, la situazione Sì, quella è veramente una cosa vergognosa, hanno messo uno spiegamento di forze, nemmeno ci fosse stato Totò Riina, cioè nel senso elicottero, 50-60 tra carabinieri e poliziotti per buttare fuori questi buoni ragazzi. Se vuoi puoi raccontare la fabbrica, dove cosa si tratta, cioè dove. Reale, nella zona di Prato, nel Marolotto. E probabilmente ci hanno detto che c'erano questi problemi e noi siamo andati lì giorni prima e niente, siamo stati loro, si è portato un po' di supporto. Poi probabilmente è arrivata la notizia la mattina, ieri mattina, che probabilmente erano entrati e l'hanno arrestati, gli hanno spaccato tutto il presidio. Ma sono la cooperativa di facchinaggio? No, loro lavorano in questa azienda che ora è cosa fanno di preciso non lo so, però sta di fatto che loro come sono iscritti al sindacato, li hanno licenziati in 22. Okay. E quindi sono arrivati la mattina come fossero veramente dei delinquenti, gli hanno fatto un culo come una stagna. Solidarietà a questi compagni, ma mi sembra il minimo, tocca uno tocca tutti come si dice sempre, è normale, cioè nel senso una volta tocca a noi, una volta tocca a loro e una volta tocca a un altro. La convergenza, come Matteo diceva prima, questa è la convergenza, oggi il 22 è la convergenza. La convergenza nasce sempre dall'empatia, dalla visione empatica, e tu c'hai, se ti manca la visione empatica non puoi fare certe cose, per cui devi lavorare sempre. Deve andare sempre alla base delle cose per cercare, cioè di se stessi, per cercare di fare qualcosa, se no non funziona, cioè se non sei non fai, no? Certo. Oh, ti salutiamo. Vai, che tu devi tornare a suonare il tuo tamburo. Sì. Ciao fratellone, ciao, saluto a tutti, ciao, ciao, ciao, auguro di nuovo, ciao, grazie. Almost. Però va bene, dai. Facciamoci un applauso, dai. Aspetta, sì. Abbiamo sentito le interviste, l'ultima era quella di Snupo, poi abbiamo ascoltato il suo pezzo bellissimo Insorgiamo, la sua versione stupenda, che spesso fa da finale nelle nostre trasmissioni. Cosa dire? Spero che quella del 5 novembre sia una grandissima manifestazione, quella di Napoli. Io penso che sarà molto partecipata, anche se c'è in contemporanea la manifestazione per la pace a Roma, altrimenti sarebbe stata una manifestazione il triplo di quella che abbiamo visto a Bologna, molto probabilmente. Però il 22 ottobre è stata una manifestazione per me importante, perché spesso si dice non ci sono più lavoratori, la gente non scende più in piazza. Non è vero, e non è perché c'è un governo di destra. I compagni della GKN l'hanno detto nelle interviste, ci sono state manifestazioni con 40.000 persone a Firenze, ci hanno dimostrato che se parliamo tra di noi, tra tutti quelli che hanno qualcosa da dire, qualcosa da rivendicare, tra tutte le organizzazioni politiche e sindacali che veramente vogliono cambiare questo paese in maniera progressista, di sinistra, alternativa, anticapitalista, ambientalista, per i diritti dei lavoratori, dei cittadini, per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per tutte cose che interessano la collettività. La questione delle bollette, oggi c'è un sacco di gente che in piazza protestava per questo, c'erano vari partiti politici, varie organizzazioni politiche che si battono per tutte queste cose che ho detto. Se si riesce a parlare, si riesce a comunicare e si evitano i vari settarismi che esistono spesso, e come vi ho parlato con De Magistris, c'è unione dal basso, le persone scendono in piazza, manifestano e si fanno sentire con manifestazioni importanti che non sono semplici passeggiate, perché il 22 ottobre non è stata una semplice passeggiata e siamo andati in tangenziale, insomma c'è stata una manifestazione che ha bloccato Bologna per farsi sentire, per dire a Bologna guardate che ci sono dei problemi, il passante di mezzo è un'opera inutile, pericolosa, dannosa, che sarà un problema enorme per noi che abitiamo a Bologna, e per 6 anni almeno avremo Bologna bloccata, e il futuro purtroppo non risolverà tutti i problemi dal mio punto di vista che hanno i lavoratori tutti i giorni per poter andare al lavoro, per poter vivere in questa città. Non c'è solamente la questione del passante di mezzo, il 22 ottobre c'era tanta gente, come ho detto prima, che era lì per protestare contro una deriva che non è solamente il governo Meloni, sono anni che purtroppo i cittadini non hanno risposte degne di questa parola. Insomma, il 22 ottobre è stata una manifestazione che dà speranza, andremo avanti. I compagni che erano in piazza e in manifestazione sono intenzionati ad andare avanti, a crescere sempre di più, a convergere sempre con più gente per creare un movimento di massa, e così come ha detto Matteo Moretti, bisogna cambiare i rapporti di forza di questo paese, e noi condividiamo tantissimo questo, ecco perché facciamo una battaglia all'interno della CGIL, dove lì sono stragrande maggioranza dei lavoratori, ma non solo, e questo ci dà la possibilità a noi di poter parlare con tanta gente, perché i rapporti di forza vanno cambiati per poter ottenere i risultati. La destra si sconfigge nelle piazze, non in Parlamento. Abbiamo visto come c'era la preoccupazione del pericolo fascista prima delle elezioni, adesso tutti quanti a congratularsi col governo Meloni. Dobbiamo sconfiggere la destra nelle piazze, ma non solo la destra, dobbiamo sconfiggere tutti quelli che non vogliono fare gli interessi dei lavoratori e della popolazione di questo paese. E lo possiamo fare solamente se convergiamo, se siamo in tanti e convinti di poter cambiare le cose. Un saluto a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima puntata con altre, speriamo, con altri argomenti interessanti come questo. A presto. Oggi devi scioperare, davanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo lì con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh, Ugandola, prima che ce ne sarà, che fatica che ti chiedo. Devi scioperare, davanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana, la passo lì con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione. la passo lì con te. E poi c'è resa, non c'era.